Vogliamo accomodarci e oggi parleremo di barche, di canottaggio. No, bugia, parleremo però di una storia che ha a che fare con la barca, con il mare. Io vivo a Mola da un anno e mezzo e non posso fare a meno di vedere il mare la mattina. E sapete, a Mola c'è una regata, forse c'è una foto. E quindi noi molesi, dico noi perché ormai la famiglia dei molesi si sta aggiungendo qui, sappiamo bene che cos'è il canottaggio. Questa è una delle regate che si fa a Mola. A giugno, a luglio, non lo so, ci sono un sacco di feste a Mola, quindi potete venire e c'è sempre festa a Mola. Oggi parleremo di una storia interessante, in realtà di due storie, però la prima ha a che fare con una barca e la seconda ha a che fare con una casalinga disperata. Quale volete sentire prima? Partiamo dalla barca, ok? La casalinga disperata la lasciamo verso le 12, perché a quel punto lo spirito della casalinga comincia a prendere noi donne sul sugo, la pasta al forno, la lasagna. Mia madre alle 8 ha chiamato oggi, come vuoi il pesce? Che bello, mia madre non è proprio una casalinga disperata, però oggi ha scelto alle 8 di voler sapere come cucinare il pesce. Incredibile, Dio fa cose straordinarie. Marco 4. Una storia che conosciamo tutti benissimo ed è la storia di Gesù che calma la tempesta. A quanti piace questa storia? Ah, è una delle storie più belle. L'abbiamo vista milioni di volte, forse abbiamo sentito 18.000 prediche su questo brano della Bibbia, però oggi vogliamo concentrarci su una sfumatura che ha a che fare un po' con noi, diciamo così. Ed è in Marco 4, verso 35, e dice: «In quello stesso giorno, la sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva». E la premessa di questo verso era che Gesù aveva incontrato tantissima gente che voleva essere guarita, che voleva essere equipaggiata, che voleva vedere Gesù, che voleva sentire le sue parole. A un certo punto Gesù, preso dalla stanchezza, ma preso anche dalla visione di allargare il suo regno, che doveva arrivare alle altre città, dice ai discepoli che erano stremati come lui, perché con lui andavano per i villaggi in giro a pregare, a insegnare, a liberare da demoni, dice ai suoi discepoli, andiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé così come era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa si riempiva d'acqua. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero, «Maestro, ma non ti importa che noi moriamo?» Ed egli svegliatosi sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati! E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Che bella sta storia. Ed egli disse loro, ma perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri, ma chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? Che bello! Che bella storia, è una storia che ha dell'incredibile. È una storia che ha dell'incredibile per diversi punti, perché la maggior parte dei discepoli di Gesù erano pescatori e Gesù ha chiesto a quei pescatori di prendere una barca e di andare dall'altra parte del mare. Quindi una cosa semplicissima. Ma sai quando il timing è sbagliato? Sai quando nel fare le cose che Gesù ti chiede qualcosa con un tempo sbagliato arriva e distrugge i piani o sta per distruggere i piani. E allora noi siamo lì e diciamo, oh, ma com'è? Ma com'è? Ma scusa, Gesù, ma stai nella barca con noi? Dobbiamo andare all'altra riva perché ce l'hai detto? E mo' la tempesta. Ma com'è che succede proprio ora, proprio a noi? E tu stai dormendo! Gesù, ma come ti viene di dormire ora? E colti da quella frustrazione, da quella disperazione, da quella stanchezza, da quel senso di non soluzione, Gesù stava ancora dormendo, i discepoli vanno da lui e gli chiedono, ma Gesù, ma non ti interessa che stiamo morendo? Ma non ti interessa di noi? Non ti importa? Queste paroline ci sono nella Bibbia due volte, sono esattamente nelle due storie che vedremo stamattina. E la parola precisa significa non hai interesse per me. non hai cura del fatto che io possa morire. Chiesa, quante volte abbiamo detto a Gesù che sappiamo ci ama, che sappiamo è morto per noi, che sappiamo ci salva e ci guarisce? Sono l'unica nella Chiesa ad aver detto almeno una volta al mese, all'anno, a settimana. Gesù, ma non ti interessa di come sto? Ora, siamo sinceri. Chi l'ha detto con me? Oh, c'è qua. Grazie, Signore, che non sono così ipocrita da sola. Grazie a tutta la Chiesa che ha alzato la mano. Gesù, ma non ti importa di me? Gesù, non ti importa per quello che sta accadendo nella mia vita? Ed è incredibile. Ed è incredibile quanto i discepoli si siano dimenticati che non erano da soli su quella barca. Non è assurdo che i discepoli abbiano visto Gesù liberare persone da demoni, guarire da ogni malattia e predicare e liberare persone, e davanti ad una tempesta, per quanto difficile fosse, hanno detto: ma tu vuoi che noi moriamo? Allora non ti interessa proprio di noi. Ma allora ci usi per andare nelle case delle persone, per liberare, perché tu non ce la fai da solo? E, non lo so, a me sono venute tutte queste idee. Allora ci usi per andare a cercare il cibo, per andare a prendere i pesci, pescarli, pagare le tasse. Ma insomma, Gesù, ma nel momento in cui ti devi prendere cura di noi, tu non ci sei, stai dormendo. Incredibile. Eppure noi riusciamo a dirlo. Quello che sto dicendo è assurdo. È vero. Detto così, con freddezza mentale, nel momento in cui non sei esattamente nella situazione, dici: ma che cosa ho detto? Ma come mi è saltato in mente di pensare che Gesù non avesse interesse per la mia vita? Eppure questo è un paradosso. Ed è un paradosso. Il paradosso è definita come quella cosa che al momento, con quasi logicità, vedi che è sbagliata, ma che poi, se la dimostri, è dimostrabile che è valida. Voglio dirti questo: dire a Gesù non ti importa, o pensare che la nostra barca possa affondare per quanto la tempesta sia potente con Gesù sulla barca, è un paradosso, è stranissimo, è assurdo. E quello che Gesù ci dice è: ma non avete ancora fede? Perché? Perché è una dimostrazione naturale che se Gesù è sulla barca con te, tu non puoi affondare. Se Gesù è sulla barca con te, è impossibile che la tua barca affonda. Sì o no? Oh, questa è fede. Te lo dico di nuovo, anzi, voglio porcelo come domanda: come può una barca sulla quale è salita Cristo Gesù, il Salvatore del mondo, come può una barca con Gesù sopra affondare? Non può. Questa è la risposta. La risposta alla domanda dei discepoli: non ti importa che noi moriamo? Qual è la risposta? Come non mi importa? Come può non importarmi di te? Come posso non avere interesse per te? Come posso dimenticare che stai affrontando una situazione complicata? Come posso non avere nessuna cura per questa? Come posso essere indifferente alla tua tempesta? Fratelli e sorelle, questa è la risposta che oggi dobbiamo portarci a casa. Quando ci chiediamo: non ti importa che stiamo per morire? La risposta è: certo che mi importa. Sono morto per te. Sono morto sulla croce per te. Ho preso i tuoi peccati, ho preso le tue malattie, ti ho dato speranza, ho cancellato, schiacciato sotto i miei piedi il documento di maledizioni che c'era sulla nostra vita. Ha preso lui il nostro destino, scritto da Satana, l'ha cancellato, ne ha scritto uno nuovo. Come può a questo Dio potente, che ha l'autorità di dire al vento, al mare di placarsi, come può non importarsi di te? Che messaggio di amore, Che messaggio di amore! A Dio importa che tu sia nella tempesta. E sai, la nostra mente gira, però stavo dormendo. E c'era scritto in un salmo, il nostro Dio non dorme, non sonnecchia. Com'è che Gesù sta dormendo? Gesù, ma non ti vedo nemmeno sbattuto da questo vento, no? Tu stai, e sai, lui stava dormendo a poppa, dietro la barca. Non aveva il suo posto a prua. A prua comandi la barca, a poppa stai tranquillo. Gesù non è in quel momento lì alla guida di quella barca, Gesù sta dormendo. Ma stava dormendo perché? Poi lo vedremo insieme. Ma Gesù non dorme e non sonnecchia. Non ci sono situazioni che sfuggono dal suo controllo anche se lui sta dormendo. Questo vuol dire che il suo timing, il suo orologio è sempre in orario. Non importa che lui stia dormendo, lui ha l'autorità di dire a quella tempesta stai fermo. Un minuto più o un minuto meno. Ma è quel minuto in più che a noi ci fa uscire fuori di testa. È quel minuto in più che ci porta a dire ma non ti importa di noi. Ed è in quel minuto in più che a lui serve per far uscire da noi fede. È da quel minuto in più in cui sei con le gambe che tremano, non hai speranza, ed è quel minuto in più che ci porta a dire Gesù ma non ti importa, e Gesù a rispondere ma non vedi che ci sono? Stai tranquillo, abbi fede. Questa è la mattinata dei paradossi. Un'altra storia, poi vedremo meglio tutte e due insieme. Luca 10, al verso 38, dal verso 38 al verso 42, la storia di una casalinga disperata. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta, tutti la conosciamo come la casalinga disperata, ok? Che Gesù chiama Marta, Marta, e noi possiamo dare tante connotazioni, no? Tanti toni a questo nome, ma Gesù lo ha detto in un modo bellissimo. Di nome Marta lo ospitò a casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Che bella Maria, che fa la cosa più bella, sta. Ma Marta, tutta presa dalle sue faccende domestiche, venne e disse. Ehi, questo verso, questa parte della Bibbia, tutta presa dalle faccende domestiche, Dio l'ha scritta per noi donne, ok? Cioè proprio Dio ha pensato a noi donne, perché gli uomini non sanno cosa sono le faccende domestiche. Sono una donna sposata, mio marito mi aiuta in tante cose, ma le faccende domestiche sappiamo noi che cos'è non lavare i pavimenti, i bagni, e quando vengono gli ospiti, mio marito non può mettere piedi in casa dopo che ho lavato a terra, ok? È così, è vero? Perché non lo so cosa hanno i mariti, ma dopo che hai finito di lavare il bagno, sono ispirati per fare la barba, ok? Quindi è una legge proprio naturale, il profumo del detersivo li lascia rilassati, vero amore? Di farsi la barba. E la barba degli uomini non cade in maniera perpendicolare, presa dalla forza gravitazionale, è sottoposta ad una forza differente, ad una forza centrifuga. No, è vero, quindi. Quindi questo verso è scritto per noi, perché Marta viveva con i suoi fratelli, Maria e Lazzaro. Quindi io immagino che Marta stesse per invitare Gesù a casa e Lazzaro in quel momento doveva andare a farsi la barba, ok? E che Maria in quel momento dovesse stirarsi i capelli con la piastra, perché questo accade sempre. Amen. Tutte le donne lo sanno, ok? Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse, Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti, non ti importa che io sia tutta sola? Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, io me l'immagino così Gesù, dolce, che ci riprende come solo Lui ci sa riprendere, Marta, Marta. Non ha detto Marta, gli ha detto Marta, Marta, tu ti affanni per cose che, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, Maria ha scelto la parte più buona che non le sarà tolta. Queste storie hanno delle cose in comune e le vedremo velocemente, entrambe le situazioni, sono due situazioni estreme, Gesù sulla barca con i discepoli e nel momento in cui I discepoli e Gesù sono stremati dal ministero, sono stanchissimi, hanno incontrato le folle, avevano bisogno di un break, di un minuto di pausa. Gesù si addormenta sulla barca perché Gesù era pienamente Dio, ma anche pienamente uomo, non ci dimentichiamo. Lui mangiava, dormiva, aveva bisogno come un uomo di ricevere tutta l'attenzione nel suo corpo, ma pienamente Dio per salvarci e per guarirci. Gesù sta dormendo, è lì sulla barca e proprio in quel momento arriva una tempesta, una situazione estrema che ha portato molto stress. E nei momenti di stress, nei momenti di disperazione, da noi esce il peggio. E nei momenti di disperazione, da questi discepoli è uscito il peggio. È venuto fuori il peggio, il sentimento e la paura della morte. Nei momenti di disperazione in cui tutto quanto è chiuso davanti a noi, le nostre paure più profonde vengono fuori. In quel momento la paura della morte. E alcuni di quei discepoli erano bravi ed esperti su quel mare, lo conoscevano bene, avevano pescato lì, eppure quella tempesta sembrava diversa dalle altre. Incredibile. Ogni tempesta, Chiesa, che noi viviamo, ci sembra sempre più forte. Eppure, molti di noi siamo diventati esperti nelle tempeste. Siamo diventati esperti a tenere testa a Satana. Siamo diventati bravi. Oggi c'è una sfida e domani c'è una sfida più grande, però ci siamo rafforzati. Eppure ogni tempesta, forse quella che stai vivendo in questo momento, ti sembra ancora più forte di tutte quelle vissute fino ad allora, ad ora. E nei momenti così forti, lì il peggio di noi viene fuori. Il progetto e lo scopo dei discepoli era un progetto ed uno scopo buono. Gesù gli aveva ordinato di andare all'altra riva. E molto spesso noi, mentre facciamo quello che Dio ci chiede, mentre siamo lì nella volontà di Dio, mentre siamo lì esattamente nel posto che Dio ha previsto per noi, lì ci accade di tutto. Tanto che dubitiamo che sia quello veramente il posto che Dio ci ha comandato. In realtà dobbiamo andare all'altra riva e in realtà le tempeste non hanno l'altro scopo, non hanno altro scopo di rafforzare il fatto che noi dobbiamo andare all'altra riva e che quando arriveremo a quell'altra riva, quella tempesta e la conoscenza di Cristo che abbiamo avuto in quella tempesta ci avrà resi più forti per essere all'altra riva. Amen? Amen, Chiesa? Non disdegnare la tempesta. Perché la tempesta, quando arriva, è perché deve essere superata. E per farci arrivare all'altra riva, che è il posto che Gesù ha previsto per noi, al meglio. La cosa buonissima di Gesù è che Lui è con noi nell'altra riva e Lui è con noi nella tempesta. Amen? Sì, Chiesa? Un'altra cosa, la reazione che i discepoli hanno avuto, non ti importa di me. La reazione che Gesù voleva, fede. Ma com'è che non avete fede? Com'è che non avete fede? Gesù voleva esattamente un cambio di prospettiva. Gesù voleva un fogliettino verde dai discepoli. Un fogliettino verde scritto per fede. E i discepoli hanno fallito. Ok, e anche noi falliamo. In quante tempeste rimaniamo sotto la barca nascosti sperando che finisca il prima possibile. Però quello che Gesù vuole è fede. E la rivelazione che Gesù ha dato ai discepoli è quello che i discepoli hanno detto: ma chi è questo che sgrida il vento e il mare e tutto gli è sottoposto? Ogni tempesta ha lo scopo di farci avere una rivelazione maggiore di Cristo Gesù. Ogni tempesta ha lo scopo maggiore, più alto, di farci vedere di più chi è questo Gesù nel quale crediamo. Chi è questo Gesù al quale ogni cosa gli è sottoposta? L'altra situazione, gli invitati a casa. Gli invitati a casa per me sono un enorme stress, ok? Se voi venite a casa mia, io mi stresso, ok? E io sono così. No, Brignano fa un po', no? Arriva qualcuno. Allora, io sono un po' a casa Marinelli, accogliere gli ospiti è così. Che mio marito è tutto felice. Che bello. Allora sta lì rilassato, mio marito è un ottimo marito, è un ottimo cuoco, però quando vengono gli ospiti lui non vuole cucinare, ok? Quindi cucino io, che già è per me è stressante cucinare, ok? Però io mi raddoppio lo stress, perché quando vengono gli ospiti io devo cucinare qualcosa che non ho mai fatto, ok? Non lo so perché, però mio marito dice non fare, fai le cose in cui ti senti più sicura. Una volta avevo degli ospiti, ho fatto una cosa che aveva bisogno di 4 ore di cottura e 5 ore al telefono con mia madre. Ma quando devo mettere il brodo e la cipolla? Ho fatto, non mi ricordo che cosa era, un brasato, una cosa. 5 ore di cottura, mio marito, ma potevi fare, prendevamo una pizza, no, 5 ore di cottura, facciamo un dolce, io faccio il buffet di dolci, ok, 16 dolci, e così arrivano gli ospiti, e l'appuntamento è alle 8, io alle 8 meno 5 sto con i capelli sporchi, il grembiule sporco, la casa, e poi capita solo a me, vero? Quindi poi alle 8 arrivano gli ospiti, mio marito è tutto, ciao, che bello, io sono, ciao, ho cucinato un sacco di cose buone, un po' così, no? E allora lì sei che arriva l'ospite, magari non lo vedi mai, o è mai venuto a casa tua, e sei lì a prendere dal forno e ti vengono, no? Tipo una dea, non lo so, di qua. 7 mani, il forno, il microonde, e i frigoriferi si allargano. In quel momento sembra che le pareti dietro il frigorifero non ci sono più, quindi esci tutte le cose dal frigorifero. E a un certo punto, presa da questa frenesia, chiaramente la casa che hai pulito prima la devi rilavare perché la barba, e quindi a un certo punto c'è l'ospite, mio marito è bravissimo, sta lì con l'ospite, parla, eccetera, e io mi ritrovo tutta sudata a lavare i piatti mentre c'è ancora l'ospite mangiando a casa. E dico, oh, ma che sto facendo? Ma io ho preparato tutte queste cose per l'ospite e poi sto lavando già i piatti e ho la lavastoviglie, perché sto lavando i piatti? Veniamo colti da uno spirito, non lo so, lo spirito della casalinga disperata, che in quel momento che devi lavare i vetri, fare il cambio di stagione, spolverare gli scogli, cioè tutte le tapparelle, devi fare tutto in quel momento, devi cucinare per 27 persone, c'hai un ospite, ok? Marta era così, voglio dire, ha avuto una compagnia numerosa, fare cibo per Gesù, che era la star del momento, tutti lo volevano in casa, lei lo ha accolto a casa sua, lei l'ha ospitato perché era proprietaria della casa, quindi immagino abbia dovuto lavare le tapparelle, il bagno e tutto, e poi ha preparato, non c'era solo Gesù, ma c'erano anche i suoi discepoli, quindi io immagino forse una ventina di persone in tutto, preparare per 20 persone, io devo cominciare 7 giorni prima, non lo so, cioè c'è altra gente qui che cucina normalmente per me, ma io devo, non so, perdere 20 kg e stressarmi per una vita intera e poi pregare il Signore che mi perdoni per tutto lo stress che vivo, e poi non voglio più ospiti, chiaramente, no, scherzo, però Marta era così, Marta era con Gesù e si stava perdendo lo stare con Gesù. Marta era lì intenta a dover fare del suo meglio senza pensare al meglio davvero che c'era, perché il meglio in quel momento era semplicemente stare. E forse comprare una pizza, fare una piadina, fare un'insalata, digiunare, bere qualcosa, ma stare con Gesù. E ha espresso il non mi importa. Gesù, non ti importa che io sia rimasta sola. Quante volte la solitudine ci fa dimenticare che Gesù è a casa nostra? Quante volte ci sentiamo così soli da dimenticare che Gesù è ospite a casa nostra? Sta lì, aveva lo scopo bellissimo, onorare Gesù con la sua casa, con quello che faceva, con quello che cucinava. Lo scopo era straordinario, il modo sbagliato. La reazione di Marta è stata, non ti importa che io sia sola, anzi sgrida mia sorella. Quante volte, chiesa, quante volte ci comportiamo così? Che stai facendo al meglio, forse nella chiesa, con lo scopo bellissimo di onorare Gesù e ci sentiamo talmente soli da dire a Gesù, ma non ti importa che io sia qui da sola, perché non sgridi qualcun altro? Sapete, ci sono due modi per coinvolgere persone nel nostro ministerio. Il modo della frustrazione, Cioè che noi stiamo lavando i bagni, stiamo predicando, no? Negli upside down, stiamo sistemando, e sei talmente frustrato che vedi gli altri che si stanno divertendo e dici: oh, ma muoviti con me, non vedi che sono da sola a mettere le sedie, non vedi che sono da sola qui? Ti assicuro che questo modo non coinvolgerà mai nessuno, o se lo coinvolgerà sarà per senso di colpa. E noi in questa chiesa non vogliamo volontari frustrati. Noi non vogliamo leader che sono stanchi di fare quello che fanno, e nemmeno vogliamo volontari che siano forzati dallo sclero di altri. C'è l'altro modo, che mi piace così tanto fare quello che faccio, che gli altri lo vedono e vogliono farlo con noi. Al loro tempo, quando loro vogliono. Se vuoi coinvolgere qualcun altro in quello che tu stai facendo, fallo con gioia. Fai vedere la gioia che c'è nel fare quello che fai. E questa è una parola prettamente per i capigruppo, per i leader, per i volontari della nostra chiesa. Se sei stanco di fare le cose da solo, chiedi a Dio non altre persone, ma un'attitudine nuova. Perché le persone vengono quando riconoscono che quello che facciamo è bello. E dicono: voglio essere come lui, voglio essere come lei, voglio vivere Cristo come loro lo vivono. Leader dell'accoglienza, dell'eccellenza, dei gruppi, arruoliamo persone non con l'attitudine di Marta, perché l'attitudine di Marta porterà Gesù a dirci: ti stai perdendo la cosa migliore. E noi pensiamo di fare la cosa buona, ma in realtà lo stiamo facendo male. Non stai facendo la cosa male, ma lo stiamo facendo con un cuore sbagliato. Lo stiamo facendo con un'attitudine sbagliata, e questa attitudine allontana le persone, non le fa sentire coinvolte. Quali sono le lezioni in comune? Ho ancora 2 minuti e ho 4 punti, quindi più o meno 30 secondi per punto, ma voi sarete con me, perché lo spirito della casalinga è uscito da noi. Amen? Amen. Che bella amen dalle donne. Mi piace. Lezioni in comune da queste 2 storie. La prima di tutta, la prima lezione è che nelle situazioni più buie la nostra parte peggiore viene fuori. E quando viene fuori la nostra parte peggiore, noi mettiamo a tacere completamente la nostra parte migliore. Noi persone rinnovate in Cristo Gesù, persone nuove, di una nuova nascita, battezzate in Spirito Santo, battezzate in acqua, che sappiamo come autocontrollarci, che sappiamo tutte le promesse di Cristo Gesù nella sua parola, noi facciamo valere, diamo spazio alla nostra parte peggiore. La nostra parte peggiore è quella che dimentica la nostra parte migliore, che è Cristo Gesù in noi. E alla risposta Gesù non ti importa, Gesù è sempre pronto a dirci: certo che mi importa, certo che mi importa, figlio mio, figlia mia, certo che mi importa di te, certo che mi importa di te, ho lasciato il trono per sacrificarmi per te, come potrebbe non importarmi? Quindi ti chiedo oggi, ci chiedo come chiesa, di tornarcene a casa con una certezza: non esistono situazioni troppo buie, troppo complicate, tempeste troppo alti, venti troppo forti, mari troppo mossi per la potenza di Cristo Gesù. Amen? E questa è la seconda lezione. Cristo Gesù ha autorità su tutto. La settimana scorsa il pastore ha predicato sul grande mandato. Qualcuno l'avrà imparato a memoria. Non te lo chiedo, Giovanni, non te lo chiedo. Ma il grande mandato comincia con la prima parte del sandwich, come diceva il pastore. Qual è? Diciamocelo insieme. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. In cielo e sulla terra. Ripetiamocelo sempre. Cristo Gesù ha detto a Lui che è con te sulla barca mentre c'è la tempesta: ogni autorità mi è stata data, ogni cosa mi è sottomessa, non esiste niente, niente, non è mai esistito, non esiste, non esisterà mai qualcosa di più forte dell'autorità di Cristo Gesù. Cosa? Amen, così. Lo dico di nuovo, non esisterà mai, non è mai esistito e non esiste oggi niente che abbia un'autorità più alta di Cristo Gesù. Amen, Chiesa? Amen, amen. Qui ci vuole un applauso forte all'autorità di Cristo Gesù nelle nostre vite. Lui è l'autorità più alta, più potente. Lui è l'unica autorità a cui Satana deve essere sottomesso. Amen. Lui è l'autorità più forte a cui le tempeste devono placarsi. Lui è quel Dio che è capace di sottomettere ogni cosa naturale. Lui è quel Dio che è capace di placare ogni cosa soprannaturale, perché Lui ha l'autorità in cielo e sulla terra. Non c'è niente nei cieli e sulla terra che sfugga dal suo controllo. Io amo questo di Gesù. Se c'è una cosa per cui adoro Gesù ogni giorno è questa: noi abbiamo la garanzia che non esista un Dio più forte in tutta la storia del mondo. Amen? Questo è il nostro Dio, questo Gesù è vivo, non è un Gesù debole, non è un Gesù che al 99% gli è sottoposto tutto, ma c'è quell'1% che gli sfugge, quella tempesta, perché sta dormendo. Ma stiamo scherzando? Non mi importa. Non mi importa, certo che mi importa. Ogni autorità mi è stata data. Gesù era nel pieno della sua umanità lì e stava dormendo, ma Gesù è pienamente uomo, per capirci. Perché è il modo che come sacerdote ha avuto di prendere tutti i peccati e di capire senza peccare. Ebrei 4 dice: noi non abbiamo un sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze. Anzi, egli è stato tentato come noi in ogni cosa, ma senza commettere peccato. Questo vuol dire che gli puoi dire tutto, lui ti capisce. Ma Gesù, tu non hai affrontato quello che sto affrontando io. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Cosa stai vivendo? Lutto, disperazione, senza soldi, senza cibo, tristezza, tempesta, mare troppo alto, vento troppo forte. Gesù li ha vissute tutte, ci capisce, ma la cosa che lui ha fatto in più per noi è che le ha vinte ed è in questa autorità che noi viviamo. Amen? L'ultima cosa, Gesù vuole che noi stiamo con lui. Questo Dio dell'impossibile, non gli interessa che stai a sfornare 25 milioni di cibi, che lavi le tapparelle, che sei lì a stressarti per fare per lui, per guadagnarti la sua attenzione. Questo Dio incredibile vuole che tu stia con lui. Che cosa importa veramente a Gesù? A Gesù non importa veramente come stai servendo lui. Come stai servendo Lui? Importa a te, perché noi siamo chiamati a dare eccellenza, adorazione, serve a noi fare le cose bene per Lui, serve a noi avere questo locale al meglio, serve a noi servire in ogni area con gioia, con volontà, senza far sospirare i nostri conduttori, senza mancare ai turni, dichiarando: ehi, un turno al mese, no, io vengo due volte, Antonio, se c'è un terzo incontro la settimana, io voglio venire, se c'è un quinto incontro la domenica, io sto qui, due ore prima, io vengo dalla mattina e me ne torno la sera, io rimango qui, Antonio, vengo ad allacciarti le scarpe, perché io voglio servire il Signore. Questo fa bene a noi, perché crea l'attitudine di servi umili, e se non lo stiamo facendo così, ti chiedo di pensare bene a come lo stai facendo. Se non lo stai facendo con gioia, ti prego, non lo fare. Se non lo stai facendo con quell'attitudine di costruire una chiesa eterna, di fare la tua parte, e lo ripeto, questa parte di questo messaggio è prettamente per chi è impegnato già, e so che la maggior parte della nostra chiesa è impegnata in qualcosa. Non farlo con uno spirito critico. Non farlo sbuffando, non farlo con stress, non farlo perché devi farti vedere da qualcuno, non farlo perché devi farti vedere da Gesù. Gesù già ti vede, non ha bisogno del tuo servizio per vederti. non ha bisogno del tuo stress, non ha bisogno di che tu guadagni la sua attenzione, lui ha bisogno di stare con te. No, lui non ha bisogno di stare con te, noi abbiamo bisogno di stare con Gesù, noi abbiamo bisogno di stare con lui. E Gesù quello che vuole da noi è stare, perché quando stiamo, allora facciamo bene. Perché quando stiamo con lui, allora lo facciamo bene. Quando stiamo con lui, allora lo facciamo bene. Se non lo stai facendo bene, se non lo stiamo facendo bene, è perché dobbiamo stare con lui. Lui vuole stare con noi. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Forse sei coinvolto in una di queste due storie, forse in tutte e due le storie. Però io ti chiedo oggi di mettere davanti a Cristo Gesù la tua attitudine, mettiamo davanti a Cristo Gesù il nostro cuore, mettiamo davanti a Cristo Gesù la nostra attitudine, mettiamo davanti a Cristo Gesù la nostra disperazione, mettiamo davanti a Cristo Gesù la nostra tempesta, la nostra difficoltà, il nostro vento forte, la risposta di consolazione con cui dobbiamo andarcene oggi a casa è: Gesù è con noi sulla barca, una barca su cui sale Gesù, non affonda, non affonderà per certo, la tua barca non affonderà. Lo voglio ripetere di nuovo: la tua barca non affonderà. Se stai facendo salire su questa barca Gesù, la tua barca non affonderà. Forse oggi devi far salire Gesù. Forse oggi hai detto: ma forse Sara, la tempesta è forte, però mi sa anche che Gesù non è salito, l'ho lasciato a riva. Questo è il momento per farlo salire. Questo è il tempo per farlo salire. Se stai vivendo una fase in cui la tua dichiarazione è: Gesù, non ti importa, sappi che Gesù ti dice: figlio mio, figlia mia, a me importa moltissimo di te. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare. Signore Gesù, grazie, grazie per queste parole così forti di consolazione per noi. Grazie Signore perché tu sei qui e tu sei sempre pronto a salire sulla barca con noi. E Signore, io ti chiedo oggi, per chi ha dubbi, Padre, sali e calma la tempesta. Aumenta in noi quella fede di vedere che tu sei il Dio potente che dice al vento e al mare di fermarsi. E Signore, io ti chiedo di rinnovare la nostra attitudine come servi tuoi, come figli tuoi. Signore, vogliamo darti con gioia, vogliamo essere con gioia qui, vogliamo servirti con gioia. Ti prego di togliere da noi ogni scoria, ogni cattiva abitudine, Signore, ogni tradizione, ogni caratterialità che non ti onora nel nostro servizio, perché vogliamo darti l'onore e la gloria che spetta solo a te, che sei l'Iddio dell'impossibile. Tu sei l'Iddio dell'impossibile, noi stiamo scegliendo oggi di onorarti e glorificarti, stiamo scegliendo oggi di ospitarti a casa nostra. Perché? Perché ti amiamo. Ti amiamo, Signore Gesù, e vogliamo essere come te. Nel tuo nome, Gesù. Amen.